Ad alta voce, Ferdinando Bruni legge L'onda dell'incrociatore di Pierantonio Quarantotti Gambini. Ario e Berto erano nati e cresciuti lì, nel Mandracchio, su due galleggianti che quasi si sfioravano, e non conoscevano altra casa, non avevano mai dormito a terra. Chi, percorrendo le rive, venga a costeggiare la Sacchetta, spesso si sofferma a osservare le canottiere. Sono alcuni pontoni che hanno l'aspetto di villini galleggianti, bianchi, a due piani, e stanno attraccati l'uno vicino all'altro al molo che fronteggia la Lanterna. Lì hanno la loro sede, vale a dire la rimessa delle imbarcazioni e insieme la direzione e i locali di ritrovo, le società di canottieri. Nel tardo pomeriggio e di domenica mattina, le piattaforme dinanzi ai pontoni si animano di giovani atleti. Le iole escono allora dalla rimessa, spalancata come un'enorme bocca sulla zattera d'approdo, e vengono posate, lievi, sull'acqua. Sulla riva si forma ogni volta un cerchio di spettatori, monelli per lo più, e soldati e marinai. Stanno a guardare instancabili, per ore, le imbarcazioni e gli equipaggi, gli armi che partono e quelli che rientrano. Si ferma spesso anche qualche forestiero. Lo attraggono quelle casette candide di legno dal tetto a terrazzo, galleggianti fra i trabaccoli e i bragozzi, le maone e i rimorchiatori. Forse lo colpisce il contrasto tra l'aria pulita, cittadina e anche capricciosa e un po' inutile delle canottiere e quella rude e sporca dei velieri che scaricano sabbia e legnami e delle chiatte che fanno carbone. Ario non sapeva immaginare altra vita che quella del Mandracchio. Le canottiere, specie la sua e quella di Berto, e il fervore che da ogni parte le circondava, erano il suo mondo. La sua, veramente, sebbene venisse chiamata ancora a quel modo, non era più una canottiera. Venduta dalla società di vogatori che l'aveva fatta costruire, era diventata, sin dai primi anni della sua infanzia, la sede di una compagnia della vela. La rimessa non accoglieva più iole, ma alle pareti e al soffitto, sopra un intrico di rastrelliere, soltanto remi, timoni, barre. Ed inverno, quando si disarmava, anche fiocchi e vele, arrotolate ai pennoni e persino qualche albero, mentre negli angoli si accatastavano pezzi di pagliolo e cordami. Lo stesso aspetto di deposito, colmo com'era di vecchi attrezzi in disuso, aveva pure il camerone retrostante ove dormivano Ario e sua madre. Da piccolo, specialmente nelle sere d'inverno, quando era solo lì dentro, e ciò avveniva spesso perché egli si raffreddava e la mamma lo costringeva a letto, Ario amava guardare con attrazione e insieme con un timore oscuro quei grandi, strani oggetti posati sulle rastrelliere e le immense ombre mobili che essi, alla luce della lanterna, che appariva e riappariva sempre uguale, suscitavano da ogni lato. Guardando, fantasticava e a poco scivolava nel sonno. Ma talvolta, mentre sua madre tardava a rientrare, restava desto, a lungo. Pensava allora all'America. Gli tornava alla memoria, insistente, una frase udita non ricordava quando e di cui non coglieva bene il senso, ma che lo attraeva sempre più. Le regate di San Francisco. Una sera che sua madre rientrò più tardi del solito, pallida, con gli occhi accesi, alla domanda che ella gli fece, avviandosi verso il lavamano, ove prese a spogliarsi e a lavarsi impetuosamente, su come avesse trascorso quel tempo, gli venne di rispondere: «Pensavo alle regate di San Francisco». La vide tutta un tratto davanti a sé, mezzo nuda nella semioscurità. «Ah, questo, dici!» urlava. «Questo!» E lo percosse violenta sull'una e sull'altra guancia. Rinvenendo dallo stordimento, la udì gridare ancora: «Maledetto, maledetto, dopo quello che ho fatto per te!» Con le gote che gli bruciavano e le lacrime agli occhi, egli taceva, trattenendo il fiato. Poi, senza sapere come gli fosse venuta quell'idea, si trovò in piedi, fuori dal letto. Si toglieva la camicia. Nudo, uscì dal camerone, raggiunse il vestibolo, dischiuse il catenaccio dell'uscio e balzò, rabbrividendo nella notte d'inverno, sul ballatoio. Andava via, lontano, il più lontano possibile, nudo in quel gelo. Sarebbe morto, forse, e sua madre ne avrebbe il rimorso. Era già sulla passerella, a un salto dal molo, quando due braccia lo raggiunsero e, inchiodandolo a un grande corpo caldo, lo trascinarono indietro. Dibattendosi e urlando, rispondeva alle percosse: «Vado via! Lasciami! Voglio andare via!» Si sentì stringere, più forte ancora, contro quel corpo robusto e discinto. In un ultimo strattone riuscì quasi a svincolarsi. «Lasciami!» urlò con tutta la sua voce. «Voglio andar via! Voglio!» E si sentì sollevare e sconvolgere da un impeto disperato. «Voglio andare in America!» Uno schiaffo gli chiuse la bocca, ferendogli la lingua tra i denti. Quella notte, digiuno, sua madre, appena rientrata, si era buttata a bocconi sul letto in singhiozzi e nell'uno nell'altro cenò, stette sveglio, con gli occhi aperti nel buio. «In America!» udiva di tratto e i singhiozzi si rinnovavano. «Maledetti, maledetti tutti e due!» Si era fatto calmo. Ascoltava quei pianti e quelle imprecazioni di cui non capiva bene il senso, come da lontano. Quasi non si trattasse di lui. Aveva ricominciato a cantargli dentro quella frase, piena adesso di un fascino oscuro: «Le regate di San Francisco». C'era in essa qualcosa di proibito che lo attraeva, facendolo fantasticare più di prima. «In America!» piangeva la donna. «In America! Ma chi gli ha raccontato queste cose? Chi gliel'ha messa in testa? Chi è stato quel vigliacco?» «Sì, ci voglio andare, ci andrò», pensava il bambino. «Appena sarò grande voglio andare in America». Il mattino seguente, raggiunto Berto, il suo compagno di giochi, sul pontone attiguo, gli domandò subito che cosa fossero le regate di San Francisco. «Oh, saranno regate come tutte le altre. Cosa vuoi che siano?» sorrise Berto, che era più grande di lui. Andarono in cerca del padre di Berto, che trovarono in cucina. Ario ripeté la domanda, ma non aveva quasi finito che tutti si volsero. Lo guardava il padre e lo guardava la madre di Berto, che s'era scostata dal focolare, e lo guardava anche Lidia. Infine, mentre la donna si riaccostava al focolare scuotendo il capo, l'uomo si grattò in testa e rise. «Va là, va là!» Gli si avvicinò e gli batté la mano sulla spalla. «Regate erano, di alcuni anni fa. Ma chi te ne ha parlato? La mamma?» Seppe la verità più tardi da Lidia. Seduta sul ballatoio del proprio pontone, mentre lui giocava lì di fronte sulla zattera da prodo, la bambina non cessava di stuzzicarlo. «Davvero non lo sai? Vuoi che te lo dica io?» Ario fingeva di non udire. Si mostrava intento al suo gioco. Immergeva un bugliolo in mare e poi ne versava l'acqua sulla zattera, osservando come si disperdesse in rivoli che tornavano in mare. Quel gioco, d'inverno, gli era stato proibito dalla mamma. Era il modo, diceva, di inzupparsi e di gelarsi i piedi e di finire ogni volta a letto. Ma forse per questo, in quel momento, lo attraeva di più. «Non vuoi che te lo dica?» incalzava Lidia, dondolando le gambe sull'acqua fuori dal ballatoio. «Lo sai forse già?» «E cosa mi importa?» rispondeva testardo, schivando di guardarla. si arrese. Più tardi, quando Lidia, venendogli vicino, gli sussurrò: «Vuoi che andiamo nel camerino scuro? Te lo dirò là». Col cuore in gola, la seguì. Il camerino scuro, una specie di ripostiglio accanto alla doccia dei canottieri, era un ritrovo segreto. «Vieni!» lo aveva chiamato un giorno Berto, prendendolo per mano. «Andiamo nel camerino scuro a vedere Lidia». Ario non capì bene di cosa si trattasse. Tuttavia sentì il cuore affrettargli i battiti. Seguiva Berto, docile. «Ma Lidia dov'è?» si limitò a chiedere sottovoce. «È già nel camerino, si sta preparando». Appena furono giunti e Berto chiuse l'uscio dietro di sé, Ario, perso nel buio, ebbe un istante di sgomento. Temette d'essere caduto in un tranello. Berto e Lidia volevano fargli qualcosa, forse spogliarlo e picchiarlo. Pure non gridò e non domandò nulla. Stette quatto nel buio, in attesa. Desiderava soltanto che si sbrigassero, gli togliessero i calzoni, magari, ma presto. «Sei pronta?» domandò in quella Berto. «Eccomi!» E si udì un fruscio di vesti. «Puoi accendere!» Berto accese una lampadina tascabile e illuminò, sotto la parete di fondo, in piedi, sopra una cassa, la bambina mezzo nuda, che faceva un inchino, volgendo loro il dorso e tenendosi rialzata la gonna. Vicino alla cassa si vedevano le sue calze e il resto qua e là. «Vieni più vicino!» gli disse a un tratto Berto, appressandosi lui stesso alla sorella che illuminò in pieno. «Guarda!» Tranquilla, la bambina si mostrava. A distanza di tempo, quando la canottiera era deserta, ritornarono nel camerino scuro altre volte. A chiamarlo era sempre Berto, ma Ario aveva l'impressione che l'invito partisse da Lidia. Nemmeno adesso seppe resistere. Accresceva il suo orgasmo l'idea di trovarsi per la prima volta solo con Lidia nel camerino. Si era scordato delle regate di San Francisco. Pensava soltanto alla riverenza, come chiamavano lo spettacolo che Lidia offriva lì dentro. Ma non appena chiusa la porta, si furono seduti al buio sulla cassa, la bambina cominciò a raccontare. «Tuo papà, gli disse, è scappato in America. Tu non puoi ricordartene perché eri troppo piccolo. È stata quella volta delle regate di San Francisco. Era andato lì per accompagnare un armo di bogatori, perché in quel tempo anche il vostro pontone era una canottiera, e non è più tornato indietro. Dicono che ha preferito starsene laggiù, dove si guadagna come i ricchi, e che non gli importa più nulla di te e di tua madre, se non sei più fatto vivo, e non scrive neanche. E questo lo dice anche la mia mamma». Aveva parlato tutto d'un fiato. «Vuoi che faccia la riverenza?» gli offerse sottovoce, e in fretta, appena ebbe finito, scordandosi che non avevano con sé la lampadina di Berto. Da un movimento che ella fece nel buio al suo fianco, restando seduta sulla cassa, Ario capì che si era già rialzata la gonna e cominciava rapida a spogliarsi. «No», rispose. «Non vuoi?» si arrestò la bambina ed ebbe un'inflessione più dolce, tra incredula e supplichevole. «No», era sconvolto. Egli non sapeva, non aveva mai pensato di avere un padre. Berto e Lidia avevano, era vero, oltre alla mamma, anche il papà. E ciò non lo stupiva. Anzi, pensando al pontone di rimpetto, il primo che gli veniva in mente era il padre di Lidia e di Berto. Ma per sé era un'altra cosa. Egli aveva la mamma e basta. Gli pareva che sua madre, grande, forte, taciturna, fosse già tutto. Come mai egli poteva avere anche un padre? La sola esistenza di quell'uomo, di quell'ignoto, gli pareva mostruosa. Si sentiva oscuramente e con angoscia quasi minacciato da lui ed era contento che fosse lontano, in America. «Purché non torni», pensava. Ma chi poteva sapere se Lidia gli aveva detto la verità? Sperò un attimo che ella si fosse inventato tutto per incutergli timore. Ma no, Quella stessa inquietudine e quell'angoscia gli dicevano che quell'uomo, da lui ignorato sino a pochi istanti prima, esisteva. Era sempre esistito. Per tutto quel giorno egli non si fece più vedere da Lidia e da Berto. Stette sul pontone, dentro, accoccolato ora qua ora là negli angoli bui, sopra i paglioli e i cordami, e le poche volte che la madre, passandogli accanto, gli gettò un'occhiata, si finse occupato con una barchetta di legno, un suo antico giocattolo. La donna, come sempre, non lo guardava quasi, ma lui quel giorno, tutte le volte che si incontrarono, rialzava il capo appena sapeva di non poter più essere scorto e la seguiva con lo sguardo. Una curiosità nuova, inquieta, nasceva in lui anche per sua madre. Quella sera, mentre si spogliavano per coricarsi, e la donna conservava anche in quegli istanti la sua aria chiusa, assorta e severa, egli la pregò di farlo dormire più vicino a lei. Avrebbe voluto passare la notte d'ora innanzi, anziché nella sua cuccetta che tutto il camerone divideva dal letto della donna, accanto a lei. O magari, sebbene non osasse dirlo e quasi neanche pensarlo, nel suo stesso giaciglio, tanto più che lì, dove ora dormiva, una rastrelliera carica di vecchi attrezzi, alta in mezzo allo stanzone, gli nascondeva quasi completamente, anche quando la lampadina era accesa, il letto di lei, che infondeva, così grande e vasto, un senso di sicurezza e di calore. «Cosa ti salta in mente?» si fermò e alzò il capo la donna, fissandolo coi suoi occhi seri. «Del resto», soggiunse dopo un momento, «altri letti non ci sono. E il tuo è attaccato alle pareti come le cuccette di bordo. Non si può portarlo vicino al mio». Di un altro episodio gli era rimasto il ricordo. Egli si trovava sul pontone di Berto, anche questa volta in cucina, ove tutta la famiglia, dal padre a Lidia, era raccolta. A un tratto ci fu silenzio e tutti gli sguardi si fermarono su di lui. Anche adesso, dopo tanti anni, egli ricorda quel silenzio e quegli occhi che lo guardano, sgomenti. Che aveva detto? Perché lo fissavano in quel modo? Comprese, da quel silenzio, da quegli sguardi, di aver rivelato qualcosa che era meglio forse non dire mai, e non se lo dimenticò più. Si ricorda ancora com'è stato. Entrato da poco in quella cucina, ascoltava i discorsi degli altri, allorché, senza quasi rendersene conto, disse qualcosa anche lui. Disse, e fu come se le sue labbra parlassero da sole. «Questa notte mamma ha dormito con un uomo». È strano. Egli sa di aver detto questo e ricorda come fosse oggi tutta la scena. I presenti, Lidia, Berto, l'uomo, la donna, che lo guardano seri, quasi abbia commesso lui qualcosa di inaudito. E ricorda il silenzio che durò in quegli attimi nella cucina, interrotto solo dallo scoppiettio del fuoco. Ma ciò che egli invece non ricorda, che non esiste più in lui, è proprio quell'episodio notturno. È certamente vero, egli lo sa, lo ha sempre saputo, che in quella notte lontana un uomo ha dormito con sua madre nello stesso letto. Pure quel fatto, per quanto cerchi di riafferrarlo, gli è uscito dalla memoria. Ricorda invece la domanda che gli fece il padre di Berto, rompendo infine il silenzio. E chi era? Lo sai? E ricorda anche la propria risposta. No, uno che non ho mai visto.